L'intervista di oggi è dedicata a un evento a cui teniamo molto, perché tra l'altro sono nostri amici, il Balena Festival, insomma, si svolgerà a Genova, all'arena, al Porto Antico di Genova, dal 16 al 26 luglio. I nomi sono tantissimi, le date sono tantissime, ma per evitare di raccontarla con la nostra voce abbiamo scelto di raggiungere al telefono uno degli organizzatori che ci racconterà proprio com'è questo evento del Balena Festival. Siamo al telefono con Lorenzo, intanto grazie per essere qua con noi su Radio Città Fucico. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Come sta andando la preparazione di questo evento che appunto è alle porte perché inizia a mancare davvero poco? Beh, allora, come al solito è una cosa molto faticosa, una cosa a cui stiamo dedicando tutto il nostro tempo, perché poi insomma dietro Balena c'è una macchina, ci sono tante persone che ci lavorano, però sta andando bene, siamo molto contenti. La cosa che abbiamo notato un po' guardando queste 11 date, perché appunto ricordiamo che il Balena si svolgerà dal 16 al 26 luglio, è anche la grande varietà che c'è dei generi musicali presentati all'interno delle serate. Ogni serata ospiterà diversi artisti, ma anche di generi tanto diversi. Come mai avete fatto questa scelta per questa line-up e come mai avete scelto proprio questi artisti? Ma è sempre una scelta di campo, nel senso che non ci è mai piaciuto definirci troppo, avere solo un genere o stare dentro insomma degli schemi, quindi facciamo le cose che ci piacciono e che riteniamo interessanti, che girano, soprattutto dando molto spazio anche a musica emergente, perché poi il Balena quest'anno sarà composto da più di 50 artisti, comunque con metà gruppi che sono sostanzialmente emergenti italiani e non. E quindi niente, non ci piace definirci con un genere, ma vogliamo essere un festival aperto il più possibile e che possa coinvolgere più persone possibile. Tra l'altro questa è la seconda edizione di questo festival, no? Nel senso, non è un festival che ha una storia lunghissima alle spalle, ma è un festival che è nato da qualche anno. Insomma, ti chiederei come è stato affrontare anche questi anni un po' particolari forse e riuscire quest'anno invece a fare un festival proprio nel pieno senso del termine, no? Un festival di 10 giorni pienissimo di musica. Balena, guarda, è partito in realtà nel 2019, tutto il primo anno in cui ci siamo incontrati noi di Pioggia Rossa con gli organizzatori storici del Mogliotic Festival di Sesto di Levante e abbiamo deciso di provare a fare 4 giorni di concerti. Da lì ci siamo trovati bene, abbiamo portato avanti il progetto ingrandendo il festival, ovviamente è saltato il 2020 come tutti sanno, poi l'estate scorsa siamo riusciti comunque a portarci a casa un evento interessante con 8 date e quest'anno abbiamo deciso di provare a fare il salto e di fare un po' qualcosa di più, ecco. Sì, quest'anno il salto implica anche tra l'altro band internazionali molto importanti come per esempio gli Editors, Fantastic Negrito, Tuston Moore e anche band italiane gigantesche, Caparezza, Manuel Agnelli per dirne un paio. Tra l'altro voi avete un motto per il festival che è Solo Amore. Come mai questa scelta e come è nata l'idea di questo motto? È nato semplicemente perché uscivamo da un periodo molto difficile, ma non noi, usciva un po' la città, un po' tutta Italia da un periodo molto difficile, quindi abbiamo detto quest'anno puntiamo su quello che ci sembrava forse la cosa più scontata ma più giusta da utilizzare come motto e quindi è rimasto il solo amore. Ci tengo tra l'altro a dire che comunque noi abbiamo sempre avuto attenzione verso gli internazionali, nel senso che poi, tolto il primo anno in cui il festival era effettivamente più piccolo, anche l'anno scorso siamo riusciti a fare una data di Apparat, ad averlo al Balena, ed è stata una cosa molto bella, perché tante volte viene trascurata nei programmi di festival italiani, quindi noi sicuramente avremo sempre ogni anno delle slot per internazionali, quindi è una cosa a cui teniamo. Infatti le date sono molto, molto brense, come si dice qua, molto ricche, insomma, tutte quante. E ti chiediamo alcune informazioni tecniche, insomma, dove si trovano i biglietti, come arrivare al festival, informazioni un po' tecniche da dare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. I biglietti si possono trovare su Dice, su Ticket One fondamentalmente. Per arrivarci è molto semplice, nel senso che è in fondo al Porto Antico, ma una volta arrivati al Porto Antico di Genova fondamentalmente se si chiede ci si arriva molto facilmente. Se seguite le nostre pagine social, ovviamente nel caso attivassimo convenzioni daremo annuncio e ecco, si potrà guardare lì tutto quello che succede. Ecco, quindi allora ricordiamo alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, dal 16 al 26 luglio al Porto Antico di Genova si terrà appunto il Balena Festival, ricchissimo, quindi andate a vedere i social, il sito internet, perché c'è una lineup impressionante. E per chiudere ti chiediamo un messaggio, un invito alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, su perché venire al, al Balena Festival. Venite al Balena Festival perché è un festival che si fa col sorriso prima di tutto, e poi c'è un sacco di bella musica, un sacco di ragazzi emergenti che spacca. Fantastico. Ecco, per chiudere chiediamo a te una canzone di uno degli artisti e delle artiste presenti al festival con cui salutarci. Ma io direi 20 anni di Gorka. Allora noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua con noi, per averci raccontato il Balena Festival. Ricordiamo che siamo amici del Balena Festival, quindi sul nostro sito ci sono tutte le informazioni aggiornate per quello che riguarda appunto questa manifestazione. Invitiamo tutti a seguire anche i social, perché poi ovviamente è il canale più veloce per informarci. E ricordiamo allora che ci vedremo al Porto Antico di Genova dal 16 al 26. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua con noi e dai, è tutta, insomma. Grazie, grazie.